camminando una notte d'estate di quelle finite con niente da fare. Ho sentito lontano un insieme di voci cantare, affrettando il mio passo raggiunsi la fonte di quell'inaspettato rumore, e tra loro seduto così incominciai a cantare. Non conosco nessuno di voi, ma c'è qualcosa in comune tra noi che ci fa stare insieme. La stessa voglia di cantare, la stessa voglia di gridare, tanti rami possono dare la stessa fiamma. Possono dare la stessa fiamma. O ci siamo parlati dei nostri problemi ed ognuno si è potuto sfogare, o l'abbiamo rinchiusi in un sacco e gettati nel mare. La tristezza è un gabbiano, è il solo gabbiano che d'estate non dovrebbe volare. Per bruciargli le ali ci siamo rimessi a cantare, ma questa volta con qualcosa di più, qualche cosa che andava al di là di un canto nato sul mare, cioè sentirsi tutti uguali, lo stesso modo di pensare. Tanti rami possono dare la stessa fiamma. Tanti rami possono dare la stessa fiamma, la stessa fiamma. Tanti rami possono dare la stessa fiamma. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Bentrovati, buona serata, le solite chiacchierate musicali del martedì sera. Insieme a me Sergio e dall'altra parte del vetro c'è Maurizio Calzavara. Maurizio, questa sera abbiamo... Abbiamo Leano Morelli, buonasera Leano. Pronto, ciao. Ciao, come stai? Benissimo, voi tutto bene? Bene, grazie, benissimo. Abbiamo iniziato questa tua nostra intervista con te, col tuo inno generazionale secondo me, è vero oppure no? Sì, era una canzone che... pensa che questa canzone qua, Cantare e Gridare, sì, cioè non volevo neanche metterla nell'LP, io me lo ricordo, no? E come mai, Leano? Perché era una ballata, dice, ma tanto è una canzone che parla dell'amicizia, no? Poi non c'erano altri, addirittura è stata confusa un po' come una cosa politica, invece no, era solamente una cosa, che poi una canzone è nata a Jesolo. Ah, però. Cioè sì, che io dalla nostra banda, a Jesolo, sì. E così facevo qualche serata, adesso non mi ricordo. Fatto sta che una sera non avevo niente da fare, ero lì che giravo, sai, in spiaggia, e ho trovato questo gruppo di ragazzi col falò, la chitarra, il bottiglione di vino, insomma così, e abbiamo fatto amicizia, no? Cioè tutto lì, quindi non... E poi vabbè, dopo alcuni anni è venuta fuori questa canzone che loro, t'assicurano, non volevano neanche mettere nell'album. o LP come si chiamava, certo, una si chiamava volta, l'LP, no? Allora io ho insistito, ma no, vabbè, la canzone allegra, eccetera. Dopo poi così l'arrangiamento, eccetera, è venuta fuori la canzone portante di quell'LP lì. E però c'è una particolarità: il retro era un singolo di grande, forse la canzone, che il tuo portabandiera, o no? Sì, sì, sì, sì. Se un giorno non mi amassi, esattamente, più, era il retro. Il lato era, sì, no, all'inizio era la facciata. Ah, il lato A, la facciata. Era inizio. La facciata, era già uscita nelle radio, insomma già stava andando anche abbastanza bene, no? Cioè, piaceva, era già in classifica, eccetera. Ma io avevo capito che la canzone che dovevo fare in Festival Bar nel 78, sì, era quella lì, era questo cantare e gritare, perché era un pezzo allegro, e insomma parlava di questo... dell'amicizia, secondo me, di trovare della gente d'estate, come succede ancora adesso, penso, no? Certo, certo. E quindi è diventato un po' un inno generazionale, questo cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Cioè non c'entra la destra e la sinistra. No, assolutamente. Sento proprio la simpatia con cui abbiamo passato quella notte insieme con questi ragazzi, tutto lì. Che atmosfera si respirava in quei tempi, Leano? Com'è? Che atmosfera si respirava in quei tempi? Ma forse era sicuramente diversa da oggi, c'era un pochino più... questa ricerca, se vuoi... io dico dell'amicizia, ma così, del fatto di stare insieme, no? Sì. Infatti, se ti ricordi, feci anche Nata Libera. Certo. E Nata Libera era dedicata a una hippie, a una ragazza hippie che girava il mondo col sacco a pelo, no? Cioè, ed era un periodo così, una ricerca di libertà, era molto bello, onestamente. Anche Leano, forse... poi insomma, la fine degli anni 70, anche tutti gli anni 70, sicuramente sono stati, insomma, scuola. Forse c'erano meno computer e più creatività. Ti sento poco adesso, dimmi. C'erano meno computer e più creatività. Sì, sì. Beh, adesso come adesso, io penso che penso che anche i giovani di oggi si ricordino di quel periodo lì, si ricordano di quella musica, e vedo che anche quando si fanno dei concerti in giro, e sono canzoni che piacciono sempre, insomma, che anche da Lucio Battisti, voglio dire... Io parlo di musica italiana, cioè Lucio Battisti, Nomadi, che ne so, Fabrizio De André, che adesso è ritornato chiaramente in auge, dopo la morte chiaramente, certamente. E tu sei purtroppo in auge. Emiliano, ma milanese d'adozione praticamente. Sì, beh, io sono ormai 50 anni che sono a Milano, però ci tengo a dire che sono emiliano, perché sono giusto. Nato a Reggio Emilia, vicino a Reggio Emilia. E sugli Appennini tosco-emiliani lì proprio, sai, e lì è una zona che ha dato molti in Natale a molti molti cantanti, no? Certo. Vasco Rossi, Guccini, la Zanicchi, l'Aquila di Gonchio, insomma, praticamente. A proposito di Guccini e di De André, tu hai fatto delle cose molto interessanti, hai fatto due riproposizioni di De André e di Guccini. Sì, sì. Ho fatto, appunto, prima che purtroppo il grande maestro De André ci lasciasse, avevo fatto un CD dove mi sono permesso di cantare le sue canzoni, perché, vabbè, le ho sempre cantate, mi sono sempre piaciute, no? Certo, certo. Dopo l'hanno fatto tutti, no? È vero. Ecco. È verissimo questo. Però tu sei stato il primo, è una cosa che molti non lo sanno. Stasera metteremo su sicuramente un pezzo di De André. Molti non lo sanno, ma tu sei stato il primo in assoluto a cantare La Velenata e La Locomotiva. Sì, sì, sì, di Guccini, certo. Esattamente, perché hai fatto, certo, anche un tributo. Ma anche perché, sai, dimmi, sono persone che io ho conosciuto, compreso Francesco, e specialmente ero molto amico di Augusto dei Nomadi, dei Nomadi, no? Quindi anche lì, cioè, in un periodo dove ero discograficamente e creativamente non molto in forma, cioè non avevo voglia di scrivere, insomma, allora mi sono permesso di fare un LP dedicato a Fabrizio De André e un LP cantando le canzoni dei Nomadi e di Guccini, che poi bene o male erano molto collegati fra di loro, no? Esattamente, c'è stato un periodo che tu hai detto agonistico, di pausa agonistica. Pausa agonistica, sì. Come sportiva, sono. E vedi, ci sono i campionati del mondo, allora... Certo. Sì, la pausa agonistica, no? Beh, ma come tutti gli autori, penso che a un certo punto ti devi anche fermare, perché vedi che quello che scrivi non è bello, insomma... Allora, se non mi piacciono, non piacciono a me, penso che non debbano piacere neanche alla gente, al mio piccolo pubblico che posso avere, no? E quindi non mi va di fargli sentire canzoni storte, certo. Cioè, o brutte, cioè, voglio fargli sentire delle cose belle, che adesso invece sono venute fuori. E, vedi, dopo tutta questa pausa agonistica, adesso finalmente, forse proprio lì in Brera, a Milano, dove... Io sono tutte le sere, no? Sì, fra poco aprirai il locale, per quello qui sì, dobbiamo spiegarci. Sì, dove facciamo musica, certo. E quando venite a Milano poi mi venite a trovare. Tanto basta arrivare in Brera, chiedete di me, bene o male, insomma. Ti conoscono tutti. Mi trovate. Certo. E niente, e lì ho trovato un ragazzo con cui ho trovato delle musiche che mi piacevano, quindi abbiamo cominciato a lavorare per un paio d'anni, è proprio la vecchia maniera, la bohemienne, no? Certo. Con la stufina, perché faceva freddo, allora eravamo lì con la chitarra, insomma, abbiamo fatto tutte queste cose e sono venute fuori almeno una decina di canzoni che ho già praticamente inciso. E adesso sto finendo i mixaggi e sono belle canzoni, insomma, a meno che a me piacciono, ecco. Benissimo. E quindi usciranno, spero, insomma, quest'autunno, così. Tanto d'estate non va bene. Non va. Cioè, d'estate bisogna d'estate. Cantare cose vecchie, cose nuove, cosa dici? Come? Cantare va bene, cioè d'estate va bene cantare cose vecchie e qualche cosa nuova, ma poche. Sì. No, ma d'estate vanno bene quelle canzoni allegre, no? Che compreso la mia, come era stata la mia di cantare e gridare, certo. Una canzone, stessa voglia di cantare, cioè, era non un tormentone, ma insomma era una canzone che metteva appunto allegria. E d'estate vanno bene quelle canzoni lì, invece io le canzoni che ho scritto adesso non è che sono canzoni tristi, però sono canzoni normali, no? A proposito d'estate, tu, ci vediamo spesso, fai un giro anche dalle nostre parti, suoni spesso d'estate. Com'è? Spesso d'estate ci vediamo, fai il festival show, quindi giri parecchie volte. Sì, adesso faccio delle serate, sì. Adesso sono il 24, sono a Santa Eufemia di Borgorico. Ah, bene, qui davanti, qui vicino. 25, poi magari ci vediamo, sono a Cairano, a San Marco di Treviso. Bene, quelle zone lì, quindi 24 e 25, se mi venite a trovare, almeno ci stiamo un po' insieme. Certo, si può fare. Allora dai, il 24 a Santa Eufemia. Santa Eufemia. Borgorico, è bello perché, dico, qua mi avete i soldi per pagare, per forza. È ricco, un borgo ricco, quindi. Ah, sì. E dico, di che non avete i soldi, che non è vero, di che è impossibile. Il ricco Veneto, poco, il ricco nord-est. Ascoltiamo un'altra canzone di Leano, Maurizio. Sì, certamente. Volentieri. Se un giorno non mi amassi più. Blu Radio Sera. Se un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che farei. Il mondo ancora affronterei con la stessa forza dentro. Come farò fino a quando potrò contare su di te? Se un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che direi a chi mi chiedesse come fai. Mi salverei dicendo che sono stato io a volerlo, amo in fondo, poi lo ammetterei. Lo ammetterei. Poi ti guardo e stai ridendo, sul mio dramma stai scherzando. È proprio vero, non ha senso, visto che mi sei accanto. Hai ragione e se ci penso, parlo amore è molto meglio davvero. Ma se un giorno non mi amassi più, non sarà uno scherzo come ora. E pensarci adesso che sei qui, sì lo so che non ha senso, ma tutto quello che io sento, che a chi lo devo dire se non a te, se non a te. Poi ti guardo e stai ridendo, sul mio dramma stai scherzando, è proprio vero, non ha senso, visto che mi sei accanto. Hai ragione e se ci penso, far l'amore è molto meglio davvero. Se un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che farei. Il mondo ancora affronterei, con la stessa forza dentro. Come farò fino a quando potrò contare su di te? Se un giorno non mi amassi più, mi son mai chiesto che direi a chi mi chiedesse come mai. Mi salverei dicendo che sono stato io a volerlo, in fondo poi lo ammetterei. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora in diretta su Blu Radio Veneto, questa sera con Leano Morelli. Maurizio. Leano, ci sei? Sempre qua. Benissimo, stiamo parlando io e Sergio adesso. Quanto bella era questo arrangiamento, questa chitarra un po' particolare. Chi era il produttore di questo pezzo, Leano? No, io l'avevo fatto bene. L'arrangiatore era Ruggero Cini. Di Roma, praticamente era poi anche l'arrangiatore di Renato Zero, sai. Ma quella chitarra lì l'aveva fatta Cicaglione, che era il chitarrista, cioè, mi sembra che era anche il chitarrista, credo, di Baglioni, sì, o, o di Venditti. E lui, siccome gli piaceva molto questa canzone, allora arrivò in studio il giorno dopo facendoci sentire questa frase, no? Cioè, allora poi è diventata la spina dorsale di tutto il pezzo. Dopo Ruggero Cini ci ha messo quei violini eccetera, ed è diventato un pezzo. Adesso fra l'altro sarà nel nuovo album, l'unico pezzo che ho messo dei pezzi vecchi è questo, cioè Se un giorno non mi amassi più. Lo rivisiti, lo metti un po' a posto, lo rifai in versione 2010? Poi lo sentirai, è stupendo, perché è un pezzo secondo me abbastanza internazionale, no? E ci sono delle risposte in spagnolo, no? Ah. L'ho rifatto un po' la Gypsy King, cioè per dire, no? va. Bene. Ed è stranissimo, è un ballabile, secondo me è molto bello, cioè è l'unico pezzo vecchio che ho rimesso nel CD che uscirà, penso, quest'autunno, adesso non so quando, perché aspetto il momento giusto per venire fuori. La scaletta di stasera nel tuo locale quale sarà, Leandro? Ma io stasera, ma delle volte li faccio, o delle serate a tema. Vabbè, alcune mie canzoni, per esempio, lì richiedono tantissimo Nata Libera. Esatto, cioè, diceva anche se giornata libera, lo diceva anche strano, lui prima della intermissione. Che ormai mi è venuto a disgusto, perché sai, a forza di cantarla certe sere la devo fare anche tre volte, no? Cioè, capisci? Però a me fa piacere, perché insomma è una canzone mia, ma delle volte faccio delle serate dove canto delle canzoni che proprio mi piacciono, che ne so, da De André, cioè. Oppure adesso ho riscoperto Piero Ciampi, no? Delle canzoni strane, anche perché tu non puoi sempre fare le solite, no? Cioè anche Battisti faccio La luce dell'est, non so, oppure che non è semplicissima, pezzi un pochino più sconosciuti, perché certo. Fare Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Un'avventura, vabbè, sono pezzi belli, ma che fanno un po' tutti, no? Certo. Mentre invece La luce dell'est già è cioè, ho altre canzoni sue un pochino più nascoste, insomma, che a me piacciono tantissimo, insomma. Anche dei Nomadi mi piacciono alcune, ma non necessariamente Io Vagabondo, cioè sì, la devi fare perché tanto è un pezzo che piace a tutti, la cantano, no? La cantano insieme a me, quindi fa piacere. Diciamo che ogni altre canzoni molto belle, no? Diciamo che ogni due pezzi famosi ce ne sta anche uno un po' più dimenticato, un po' più compreso La locomotiva, solo che La locomotiva dura 9 minuti. Esatto. Però sei stato bravo, sei stato il primo in assoluto. Cosa ti ha detto Francesco quando ha sentito cantare La locomotiva da te? Ma sul CD c'è, su quello. Sì, lo so. Ma cosa ti ha detto Francesco? Ti ha detto Guccini, ti ha detto qualcosa? L'ho arrangiata a modo mio, perché sennò Francesco l'aveva fatta bene o male con due chitarre e via tutta la canzone così. Io invece ho fatto una specie di un arrangiamento, cioè un crescendo, perché sennò erano tutte strofe uguali, appunto 9 minuti, alla fine, vabbè. Era una rottura di scatole, insomma, certo. Anche cantando. Al di là di quello che vuol dire, no? Perché la canzone è molto bella. Che fra l'altro è una canzone, mi sembra, dedicata a un fatto veramente successo, almeno che sappia io, di uno che si è sbattuto con la locomotiva, vabbè, insomma, nell'anarchia, all'inizio del 1900. So se è vero, Lui dice, mi informerò. Di sì, però. Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, beh, rimane nella leggenda, ecco, facciamo sì, questo. Sì, non lo so, mi hanno detto che era esistito questo personaggio, sì, però magari se l'era inventato Francesco, non lo so. Mi informerò comunque. Bene. Leano, sono le 21:25, noi ti lasciamo andare ad aprire il locale, ragazzi. Il Patuscino. In via Madonnina, Milano. Quando venite a Milano, quando qualcuno viene a Milano, basta arrivare in Brera, poi via Madonnina è facile da ricordare, perché a Milano cosa c'è? Una mia bella Madonnina, no? giusto. Quindi uno non può dire no, non mi ricordavo la via, no? Via Madonnina è facilissimo. Verremo a farci un bicchiere a sentire della buona musica. Volentieri. Senti, in chiusura, ti lasciamo scegliere uno dei tuoi brani per salutarti. Ma a me piaceva anche, a parte Nata Libera, no, perché cioè basta. Molto, no, più che altro perché insomma io la faccio tutte le sere. Sì. Perché non fate sentire Io ti porterei, che era una canzone che avevo fatto al Festival di Sanremo nel 77. Bene. E dovevo vincerlo quel festival lì. Invece hanno fatto vincere mi sembra Bella da morire. Ah, esatto, sì. La ricordi, sì. Bella da morire, no? Però mi ricordo una cosa, per quello che te lo chiedo, che quando hanno intervistato De André, Fabrizio, e gli hanno chiesto un parere sul festival, insomma, diciamo, un giudizio, eccetera, sulle canzoni, lui ha detto la canzone più bella sicuramente è Io ti porterei, di Leano Morelli. Detto da lui. Io non ho vinto il festival, però è come se l'avessi vinto. Certo, moralmente sì, dai. Sì. Anche se non effettivamente come classifiche, ma quelle classifiche si possono superare. Sì, ma lo so che non c'entra molto. Esatto. E poi questo complimento da parte di Fabrizio, cioè onestamente, mi è bastato quello. Siamo sicuri al 100% che era questo. Certo. Ok, grazie Leano. Quando ciao, è che ragazzi, ti rivediamo, quando è che ti rivediamo a Sanremo? Buona estate, io spero di incontrarvi, insomma, nelle serate. Io forse farò tappa sicuramente anche a Lignano Sabbiadoro. Ah, bene. A Sanremo ci torni o non ci torni? In un locale che magari mi piazzo lì fisso, in un locale lì proprio sul mare. Ah, bene. Quindi magari se capitate da quelle parti. Io e Sergio ti domandiamo, a Sanremo ci torni o non ci torni? Ma io ci tornerei perché no, cioè è sempre una bella vetrina, adesso come adesso un po' meno, devo dire, dovrebbero rifarlo un po' come una volta, insomma, cioè, vabbè, un po' meglio, ecco, un pochino più basato sulla musica e un po' meno sull'immagine, no? Sul gossip, eccetera. Quindi, cioè, essendo il festival della musica leggera italiana, dovrebbero farlo un pochino più sulla musica. Ecco. Esattamente, della canzone, non di altre cose. Dovrebbe essere prima della canzone, poi una volta va bene, 3 o 4 ospiti, adesso ci sono più ospiti che, che canzoni. Che cantanti. Dico, beh, allora... bene. No, io ci andrei, come no? Benissimo. Ma se ci vado e vinco e scappo, Certo, anche ti aspettiamo per una nuova intervista, un'altra giornata, quando avrai più tempo, così parliamo un po' più a lungo, ok? Ma volentieri. Ok. Vi aspetto volentieri. Salutone, grazie, Leano. Un bacione a tutti. Grazie a te. Ciao, Leano, grazie. Ciao, ragazzi. Ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Laggiù, dove l'acqua è fuoco, laggiù, dove il buio è luce, io ti porterei, dove tu saresti quella che non sei, che non sei. Quassù, dove l'acqua è acqua, quassù, dove il buio è buio e luce non è mai, dove tu sei veramente quel che sei, quel che sei. Ti porterei dove il vecchio è un bambino, dove l'odio è amore, dove il pianto è un sorriso. Ti porterei dove tutto è diverso, dove non mi puoi dire che non mi ami più. Nai nai, nai nai nai nai nai. Nai nai, dove il buio è buio e luce non è mai, dove anch'io purtroppo sono proprio io, proprio io. Nai nai. Ti porterei solo per un momento fuori da questo mondo, fuori dall'universo. Ti porterei dove allora potrei essere un altro e capire che non mi ami più. Nai nai. Nai nai, dove il buio è buio e luce non è mai, dove anch'io purtroppo sono proprio io, proprio io. Sono Alberto, ho 14 anni e dopo la scuola media ho scelto la formazione professionale di Enaip Veneto. Cresco, imparo e costruisco il mio futuro. Tutte le info su